Everybody chissà, va bene. Auguri comunque che non siamo sentiti, Tore. Se ci mandate tramite il telefono, ricevuto dai. No, l'ho ricevuto anche perché il telefono lo lascio sempre abbandonato qua. Se non lo sento il messaggio non l'ho visto. E magari su WhatsApp me l'hai mandato. Ma hai mandato anche la risposta. L'Alzheimer incombe. Certo che andemmo e andemmo. Dopo la sumata ha vinto, ma chi non si la mette più. sono stato ciucco quando mi hai fatto gli auguri, Salvatore, mi devi scusare. Forse mi ho bevuto qualcosa di troppo ed ero un po' ciucco. Ma se ti tocca la stega che non bevevi. Ma se tu mi hai detto che va giù l'Alzheimer addirittura. Una cioffa è il canale. E deve essere così, no Musù. Oh Natali. Dimmi. Ma tu non lo stai più usando il tuo nominativo, Alfa 1? Io che lo uso, però tutti entrano con il nome Musù, cosa? Che quello è vero. Fatto ragionamenti su uno, cioè mai si fa nomolo, non si fa nominativo. E andare. A Gianni ce l'ho già, non è Gianni, a voce doppietto, doppio ru, doppio panettone. Doppio whisky. In evidenza, io dico sempre, c'è anche da Gianni doppio ru. E lo, a furia di sentirlo, lo ripeto, se Natalino dice sempre, c'è anche di Natalino, Natalino lo chiama. Gianni, a te mi sono chiamati, doppia fritella, rotulella. E io via. Allora che avete morito la mate si cosa. Doppia fritella con la crema. Mettono il bip come se magari dicessi parolacce, roba del genere. Secondo me lo stanno facendo apposta. Dai, Arugani, se no fa di bip. Sorridente, tutto da me. Avanti, Tore. Quello è... Ma no, non sta uscendo quello lì. Entra e esce con la portante solo. Ma quello del bip? Quello sicuramente non sta uscendo. Faccio mai, però non c'era bizza. Tanto gli suoi zeni, entra, boh. Io quando ci do la portantina, infatti poi Gianni mi ha detto, no guarda che da poco fa è fede uscì, e allora boh, basta. Ma sai che ci manca? Grazie a Rolfo, lui si aveva 14 anni e tutti i gatti in pari. E chi su, ciao, lui fai troppo in gamba, mi fa ridere troppo, è troppo simpatico. È entrato la clavicola che ti avevo fatto mezzo questo. Sì, già l'ho sentito anche io, ha parlato anche con me. Sì, stava entrando, ma c'aveva questo malacchino nuovo che lui non conosce, di quelli digitali, boh, doveva regolarlo bene. Ti ricordi, Guffo? Che ho grazia. Grazie, ma anche tu a Marione ci oggi. Oggi ai Varioni, Burigianni, dove? Utile raccogliere la. Dove c'è? Forse entra nel 23 Graziano. Sì, che è gustoso, A me Candiru. Candiru. A dieta, me lo quasi a porta, me lo quasi a due. Se ne cucinava poco di chi c'ha roba buona. Da Linghita, divisa alla Sassarese, a Bruce. Comunque Gianni, le fritelle protullella, la crema mette anche protullella, mette anche un po' di roba alcolica, ecco bagosa. Tu mi avete così. Ma la limone, roba alcolica. Già le fa buone, le fa buone e melanfrose. Ma faccio piano, le feste sono finite, una e bombi, se possibile mi dai io. No, io non le mangio più, oramai. Adesso mi abbiamo festeggiato e poi datemi di lì Quindi cosa ho preso l'altro giorno? La vuoi ve lo dirà e dopo glielo dici. Dimmi tutto che si è mangiato la tale. Siccome ti non vedi tu, allora ti ha pigliato un cornetto a nome tuo, ha detto a chi ha passato tu a pagare. Ma questo è un problema, va. Però che ti basti si è mangiato, signorino. Lui si è mangiato, Zuru. Si è mangiato la prigione e pure un cornetto a fastidio, ma cosa non vedi tu? Allora si l'ha mangiato. Gli dispiaceva, capito? La ciabatta non la sono mangiata, è male, l'ho smandato. No, il cornetto a crema. Ciabatte non ce n'erano, guardate, non c'erano né cornetti di quelli che mangiamo noi, il cornetto croissant però, quelli che mangi tu alla marmellata, per intendere, se me l'ho fatto alla crema, l'ho preso. Ma ti fatti male, vado di ammettere, lo sai, ti vuoi mangiare queste cose, una al solo basta. Avanti, ti ho mangiato il tuo Gianni. Quando torno a casa io approfitterò, non li mangio, ma molto, non è nessuno. È un barettone, affettone, eh? Lo è rotto di viso, è dubbio di calore e razza la mare. Dai, lasciati per d'acconsi, a mangiare per un barettone, no, seguisco, proprio la glicemia da voi, voglio in misura di pirami. Sempre sto messo sotto frequenza la glicemia, ormai che sono in campagna non mi vede nessuno, avanti la salì. Immaginate, alla cua che tu doni i nomi, lo vasi. Tutto malissimo, sei la sola, non è nessuno che ti possa aiutare se ti attendi male. No, che si è messo sotto controllo, io l'avevo pensato prima. Si è messo che basta, allora sì, una fettina già mi la mangio, dai. Dittelo anche a me, che la vuoi ben su io. Dai. Vabbè ragazzi, io mi devo spostare. Se in caso ci ritorno a entrare. Ehi, vai dai tuoi amici. Non c'è problema. Ok, ciao Tò, buona questa greca, avanti Natali. E ciao Tore, buona questa greca. Salutami a Graziano, se entra, a Gio Maria e a Marino. Ci sentiamo alle prossime. Allo. Ciao Tò, salutami tutti. Natali, ci dobbiamo vedere per una questione. Va bene. E allora è una finestra. Fammi un colpo di telefono e vediamo un po' la situazione. Ehi, già ci sentiamo. Cappa. Poi il marito ha un malacchino un po' difficile che da cittadino, non entra quasi mai. Il marito sento soltanto la mattina alle 4 e 2 e 3 minuti che mi manda il messaggio, buongiorno. Una voce era mi pare di martedì o mercoledì, buongiorno buon lunedì, ha giocato Marì, ma lo sia Varione, dimmi che io c'è lunedì. Ma è che andando a travagliare. Lo so, però è domanda chi so che li mandari, non la vedo se lui è un macchio o un macchio, ricompreso. Gianni, lascia il paesone. Io lo so, non c'è la fame, va, Gianni. Mi. Natali. Ero a Cutiacchino, ero. Mi sono dovuto spostare. E Gianni, anche lui a Cutiacchino. L'hai contagiata, chi non risponde? Si sarà spostato anche lui, non lo so. Beh, comunque, in base a quella maledanca, mi ha detto, io pensavo che era tutto passato, ragazzo male, no? E sono i dolori post-operatori, manco un mese mi è operato, un mese Ruvazzi era di sei, Ruvazzi anzi, devi ringraziare che andando così, a chi io pensavo di vederlo con i ciampelli, invece no. Già era andando tranquillo. I dolori post-operatori sono quelli, Tony. Vabbè, io ho cominciato molto poco a partecipare, bene. Per le multiple fratture del maleolo, quindi, che è la cosa più fea che è. Tutto il resto, si è accorso, la cosa del dolore mi è passata. E infatti, chi c'è la vera frattura, chi c'è di un maleolo, dici che è paurosa. Già lo so. Allora, Gianni, ce l'hai dato? Niente, cosa... Non mi ha ragionato anche lui qui tacchino, oppure in cucina mi piace una bella fetta di paletto, non so. Anda bene. Comunque faccio ancora. Un mezzo messo di cioccolato fondente, di sciacquadrati, mannimi. Ne ho una secchettiera. Non mi ha dato un pezzo di massaggio. Perché il fondente già lo posso mangiare. A me mi hanno regalato altri due. Aggiù due cose, due di sfumante, me ne hanno dato ancora, che manco due cardi da me, me due bandoro, dimmi tu. Allora ce ne va vero di a mettere tra la zia e gli ira, allora le due, meglio comunque una fettina già puoi trasgredire, dai, andata lì, una ogni tanto, andava, Mi un mezza fettina di panettone ho mangiato, che non mi piace nemmeno. Questo, Verzani, che bagendi. E ti ha sopramodulato il fatto, Verzani, ti ha amplificato di te. Attenzione, Gianni. Tutto silenzio. Gianni! No, me ne sei dato. Altra baracchina, mo ci portai, sono disinuta, e pare, boh. Tony, mi sono spostato io perché sono dovuto andare a aprire. Eccomi qua, se mi avete chiamato solo. Cioè, anche il numero, Vazzi. Quando intendi qualche passo che è bassona che non è da zona e comincia a mangiare a fare casino. Quello l'ho capito. Eccomi qua. E che fine avevi fatto? Mangiare la roba del tone? No, era al telefono. Ah, vabbè. Io ho sentito anche il campanello che era suonato per tirare prima abbagliato. Anche lui fa. Lui va direttamente alla porta a ascoltare, non abbaia, è mio fuibo, non abbaia niente, ascolta la porta con il pelo dritto, però ascolta. Se vede qualcuno che non è di casa, la granfa. No, il mio faccarrazzo, sono una faccia di sera ieri, ho fatto un casino tutti e due. E casa la Brogliante dice paradura, finza la cancelletta, ma gente. Allora esce fuori, baito, non vede giù. A chiari di suiti, cosa che tu non senti, magari qualche fantasma, tu esalisai. Eh sì, chi venga e manrica un po' di panettone a pizzacchio, lo si conviene, rega. Ma tu non ci credi fantasma? No. Se senti, ti faccio vedere qualche cosa su internet e poi mi dici vero, questi che vanno a fare delle, come si chiama, delle perlustrazioni nelle case diroccate, negli ospedali abbandonati eccetera eccetera, parlano proprio, capito? Mi chiedono ci siete e loro rispondono. Gianni, cadure mucche e mucche e mu, è morto tutto. Allora io ho fatto più o meno un'analisi quando mi hanno addormentato totale per l'operazione, perché sono subito due volte per l'anestesia. Quindi, se muore va tutto di su voi, non sogni, non senti, non fai nulla, quindi automaticamente è come ti sei mucchio. E quando sei mucchio è fantastico, mi maglio, dai. Allora qua dove abito io è morto Cionicino, perché l'ho trovato morto. E a me è fantasma, magari se me ne fosse incanto, ma avevo fatto da poco di numero all'otto per avere i gatti. Documentati, l'anima è in vita. vita sempre. Il corpo rimane in terra e l'anima in vita. Siccome se qualcuno muore di morte violenta, rimane in terra, però chiedono aiuto per trovare la luce. Vabbè, bisogna capire certe cose, se no bisogna anche vederle, studiarle, eccetera. Io prima non ci credevo a queste cose, però adesso ci credo perché passo notti ascoltando le live di gente che va così per caseggiati abbandonati, eccetera, e si sentono proprio loro parlare, rispondono, capito? Gli dice come ti chiami, gli dicono il nome, certo non si sente chiarissimo, però si sente così, capito? Gianni, chi si sono interferenze? Quando ci muoio io non lineare, ha già favidato in essi semi e si sentito lì. Ah, che giorno è andato male. Come ti ha picciato? Cazzo, e dove sempre le camere di mezzo, dici? Comunque io non credo, beh. E invece, secondo me, dopo che uno muore, con la famiglia, quella cosa, magari rinasce in un'altra altra dimensione. Dimensione spirito. Non vedrà nulla, chi fa delle chicche, chi si vede a casa. E infatti, prova a guardare Daniele Urbex la notte e vedi, hanno macchinari, c'hanno tutto. C'hanno il K2 che serve per dare i segnali, si accendono le luci rosse quando ci sono spiriti in vicinanza. Poi c'hanno l'altro che si chiama lo spirit, che è quello che ti fa sentire proprio le voci loro. Allora io che ne avrei dovuto sentire 50.000, ma non ci credo io. Secondo il mio parere i muci non fanno male a nessuno. Questo è il mio parere, e si dice che si nasce in un'altra vita, e quella lì non appartiene più, non niente. Ci sono spiriti marini e spiriti buoni, dipende. Ci sono quelli che praticamente tu chiami una persona, la cerchi e si presentano come se fosse quella persona, invece sono spiriti maligni che ti fanno dispetti. Guarda che io ho visto filmati in una casa di roccata dove c'era un pianoforte, si è alzato il coperchio del pianoforte e poi di colpo è caduto e ha fatto suonare il pianoforte, si sono cagati sotto. Ho visto io che c'era il filmato, loro ci avevano le telecamere, ho visto tutto il filmato, capito? Sono scappati, poi sono andati a scappare e si è chiusa la porta, voi intanto vi fate venire il zuzzo. Ma avevi detto che a te ti fate le mani a vedere che cose, che ti sei svegliato, ti sei asciugato, avanti, continua a vedere che cose ti piazzi. Gianni, a me per fare che anche a chi voce deve correre di nutta a te. No, mi sono sognato che avevano suonato alla porta, ho guardato dallo spioncino e c'era un morto di quelli con la faccia da scheletro, là. E mi ha fatto, oh, cazzo, mi sono svegliato in soprassalto. Io sognava, avevo un po' più, sempre roba erotica. E te? E quello succede a tutti, si chiamano polluzioni notturne quelle. E ti sveglio con cicciolino tuo idioma. Natalia, sì. Poi quando sei vecchio non ne fai più quelle quei sogni lì. Poi sei sogni le vecchiette. Si sogna quello che rimane più impresso nella mente durante la giornata. Io un tempo fa, da parte di scherzi, dicevano sempre che tra un po' di uno, ma Buongiorno signori, io vi devo lasciare che sono arrivate le pizze. Vi ascolto comunque. Ciao! Ecco perché si immaginava qualcosa del genere. D'accordo Nathalie, buona pizzata, te concetta che è company. Ci sentiamo se per eventuale qualche amico. Avanti già. Ciao ciao Nathalie, buona carica, guarda la fai. Mangiatela anche una parte mia. Cappa, avanti a tu. Io sto per chiudere lo stesso perché devo fare da mangiare a Tyson e poi devo andare a accompagnare la lavora. Dai, ci sentiamo ragazzi, statemi bene. Faccio corretti, dai. E faccio tutto il resto che devo fare. Ciao ragazzi, buona serata. Anch'io, ma sempre mezzo, manco mi ha pensato, che pensavo che era più presto. Va bene, dai, ciao Gianni, stammi bene, salutoni, ciao anche a te, a tua vita, più presto, come te la consigliaggio, che noi più o meno a questa ora chiudiamo, preparare la cena, tutto quanto. Ok, salutami in Correa, ci sentiamo, ciao a tu, ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo. Ciao. Ciao ciao. Attenzione 10, c'è qualcuno? Buonasera Roberto. Ah, ciao Gabri, no, proprio a te, stamattina ho sentito a Claudio, ieri, no, quando è che mi ha portato sabato, adesso mi è sabato, mi ha portato quelle cose che mi hai dato, ti ringrazio, mi sono dimenticato ieri di ringraziarti, a buon rendere, come si dice, dai. Ho acceso adesso, ero con Claudio, alle 5.25, sto facendo ora, tra qualche minuto arriva mia figlia, sta aspettando la telefonata, 10 minuti penso, ne sta salendo la Porto Torres, un quarto da 20 minuti dai arriva. Comunque ti ringrazio di nuovo, ok, di nuovo a te Gabri. Sì, tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare, figurati, non devi ringraziare, dai, mi ha fatto piacere. Intanto io ce l'avevo in garage, non li stavo usando, quindi dai, meglio che li abbia qualcuno che possano servire, a cui possano servire, a me non serve, a me non servivano più, a me non servivano più. Niente, niente, sì, dai, tiri di scorta magari, ma io voglio che servano, ce li hai. Certo che sì, aspetta, c'è qualcuno, ho sentito che voleva entrare avanti? So, quando stai parlando tu hanno sovramodulato, vale, avanti chi vuole entrare qua sul canale 10? Forse qualcuno che... Okay. Vabbè, come ho detto, di nuovo a te Gabri, dai. E beh, che si dice di bello? No, niente, stavo guardando un ritolo della... No, te lo dico subito perché lo devo mettere al... lo devo mettere all'icon. Un ditolo 030, il ditolo di 2 metri, G5RV, della Sirio, sì, della Sirio. Sì, ma sembra carino come, anche come prestazioni, dai. Lo dirò, me lo conosco, non lo conosco. conosco, nel senso mai visto dal vivo, dai. Comunque Cassidia sono degli ultimi prodotti, dai. Non c'è problema. No, quelle che ho io sono autocostruiti, è un progetto, una scaletta, quelli tu fai conto, una scaletta con tre, come si chiama, con tre elementi messi in orizzontale, e faccio tre bande con quelli poloni. Poi c'ho quello degli 80 metri, sono calcolati, mi ha dato le misure Marco KB, era un suo, diciamo non proprio il suo progetto, comunque l'aveva fatta lui, l'antenna era di Claudio, che poi ho sostituito tutti i fili che erano, le filari che erano un pochettino rovinate, l'ho fatto completamente a nuovo. Come isolatore ho utilizzato un coso, te lo so, ti metti anche a ridere, però è efficiente, uno di quei taglieri in quel materiale tipo, come si chiama, quella plastica dura, durissima, l'ho forato, gli ho passato i fili bene, con gli occhielli proprio saldati, fatto la regolata, e poi ho fatto la calata, saldata il cavo, non ho usato il pelo, ho portato direttamente al coso, alla stazione, anziché usare il PL, perché molte volte meno connessioni fra i volanti è migliore direttamente, e ti posso dire ho fatto un sacco di bei collegamenti, mi sono divertito. E quello degli 80 metri devo dire, pur essendo non installato in condizioni ottimali, perché non si è riuscito ad aprirlo completamente, è fatta una specie di zeta, l'ho dovuto fare per farcelo stare, e anche con quello mi sono tolto tante soddisfazioni, e va più che bene, dai. Un semplicissimo sistema d'antenna, però funziona più che bene. Dimmi la te, Davino. Io voglio prendere, perché io non ero portato delle antenne, non mi sono mai applicato, ma ho visto che viene 90 euro, non viene neanche tanto, e di poi 31 metri senza trappole, viene in pratica misura 15,50 metri, 15 metri e mezzo per lato, e la lunghezza della piattina bifilare è 9 metri circa, un chilo quasi in fitto. No, va bene, fa dagli 80 ai 10 metri, 3,5 dai 3,5 e 30 MHz. No, mi va bene, perché lo installo nel 737, capito? Come me lo riparà, lo installo nel 737, addirittura stavo guardando un SM20, oppure ho visto anche un SM30 a buon prezzo su subito, però bisogna vedere se è buono, voglio abbinare un microfono del genere. E ciccia, niente, il prossimo, anche perché mi va bene questo di polo qua, perché in pratica cosa succede, lo metto nella punta nel traliccio dopo la mato con la Grazioli, e li faccio due scalate da 15 metri a terra con un palo di sostegno di metro. Dovrebbe venire un bel lavoro, anche perché mi baso, lo metto sul tetto della casa dove c'è il traliccio, e poi mi vengono giunti diciamo i filari ai lati della casa, quindi credo che sviluppi bene come performance, o almeno spero, ma non l'ho mai provato di fuoco, adesso questa è la prima occasione che voglio provarlo. Avanti Roberto. No, assolutamente, come resa è eccellente, solamente poi ci sono le direttive, altre tipologie di antenne, però di antenne elementari è quella che va meglio, faccio il collegamento, ho fatto impensabile che un pezzo di filo di ferro, un filo di rame riesce a fare tutte queste cose. E io poi faccio la comparazione molte volte, perché ho la possibilità di utilizzare, vabbè, in tutto sono quattro le tipologie di antenne, però c'è la verticale e poi c'è la col web, però la col web fa dai 20 metri in su, i 40 e gli 80 metri non è nata per quello, fa 5 bande, e quella lì tu ascolti e senti che non senti niente, nel senso sembra muta, e invece cavolo, quando spari potenza a vedere se tira fuori i segnali, arrivano dei rapporti impressionanti, e sembra un'antenna muta, nel senso che non tiri niente, confrontata col dipolo, il dipolo che teoricamente dovrebbe essere meno rumoroso, invece e col dipolo ti posso dire ho fatto dei bei collegamenti, soprattutto funziona bene anche qua nelle vicinanze, nell'Italia non so per quale motivo io la copro benissimo dalla testa ai piedi dello stivale. La verticale spinge di più a lunghissime distanze, infatti molte volte quando c'è un po' di disturbo, ci sono segnali disturbati, commuto in ascolto la verticale e in trasmissione metto il dipolo, parliamo per l'Italia, e viceversa nell'altro caso, nella, se devi fare lunghe distanze, quella verticale spinge un pochettino di più per le lunghe distanze, la col web ancora, ancora di più, che è uno stendino, questo con antenna che io non conoscevo. Tu ci hai preso del classico stendino quadrato con questi filari tutti in giro, messo in orizzontale, così tranquillo, eppure funziona anche una meraviglia. Me l'ha fatta questo di Abbasata, un progetto, non so dove l'abbia tirato fuori, perché fa tutto lui con le stampante 3D, supporti e coso eccetera, eccetera. L'ha pronta a installare, l'ha sportata anche in Indonesia, radioamatori indonesiani quando l'hanno sentita l'hanno voluta anche loro, in Spagna, diversi posti dal mondo. Antenna semplicissima con elementi economici, da quei tubi in PVC, quelli per fare gli impianti elettrici, diciamo per tenere pesi cose, e più c'è una parte centrale che c'ha un po' di pezzi, dai, l'ha costruita con questa stampante 3D e si infilano questi tubi dentro, diciamo, e funziona più che bene. Non ha necessità di altezza enorme, perché se vedi come quanto può mettere l'altezza, la puoi mettere anche a 2 metri di altezza e funziona più che bene. Mentre le filari, l'ideale è sempre metterli in base alla lunghezza donna di operatività. Comunque io che non sono, ti ripeto, in condizioni di installazione ideale, mi sono tolto delle soddisfazioni, dai. Non posso che di parlare bene di questo tipo di antenna. Poi quando sarà il momento, devo togliere, c'ho quella cubica, quella di Walter da montare, quella da due elementi, e con quella sì che darò matta sicuramente. Tiro avanti Gavino, avanti. Scusate un attimino. No, ma sei tu, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Mi fate un controllo radio, per favore, sto provando un accordatore di antenna e non so se sta andando bene o male. Fino qua sì, da me sì, quasi a fondo scala, però la radio è incomprensibile, sì. Se di segnali si sì, aspetta, sei quasi a fondo scala, però la radio è incomprensibile. Beh, aspetta, che abbasso, ciao Rebecca. Guarda un attimino, se è migliorato o meno. Sì, no, è tutto da me, arrivi fortissimo ma incomprensibile. Sì Roberto, riprende un attimino qua Roberto. Niente, poi stavo guardando queste loco magnetiche di Ciro Mazzoni, che sono, secondo me, sono antenne molto interessanti, e prima o poi la comprerò, prima o poi me la prenderò, perché è vero che costano 1000 euro, quasi 1200 euro viene la Loco Mini, però farò il sacrificio e la prenderò per l'antenna. Non so se riconosci, ma sì, molto probabilmente, anzi sono sicuro di sì, si chiama Ciro Mazzoni. In pratica sono le antenne che montano nelle prefetture, le vedi in alcune prefetture italiane, in alcune, in quasi tutte le prefetture italiane. Fino, ci sei? Sì, ci sono, ho abbassato il microfono, questa radio ha un'antenna piena di onde elettrostatiche. Sì, no, io ti ascolto bene, probabilmente lui è troppo vicino, magari mi capita anche a me con Claudio quando c'è segnali a 960, devi utilizzare l'attenuatore perché saturi magari lo stadio d'ingresso della radio. Allora io ti tiro fuori benissimo, molto potente la modulazione, il segnale sei quasi 9+20, non posso dire niente, forse è un po' troppo da combattimento, però ti ascolto, diciamo, in modo chiaro, non ho nessuna perfezione. Probabilmente prova a tenerlo un pochettino, Gavino, se cambia qualcosa. A me mi succedeva col 440 che dovevo attenuare per avere una comprensibilità quando sono segnali troppo forti. Prova di nuovo Gavino e vedi un po' cosa succede con Tino. Dai Tino, poi passaggio, adesso vai l'attenuatore, hai tutto inserito, vai. No, vabbè, io ho abbassato il meccanismo, perché magari tendo un po' a staccare, non so. Siccome sto provando una produzione di antenna, non so se farò bene o meno, quindi non so neanche se ho stazionale, dalla radio mi dice che lo ho, quindi volevo vedere un pochino la modulazione, se ha cambiato o meno. Allora fino qua io adesso ti ho attenuato l'attenuatore e niente, vabbè, da 9,60 si scende da 9,10, ma dai, diciamo che è una telefonata, adesso mi arrivi benissimo, però ti ho dovuto attenuare perché eri a secca. Mi è sembrato che c'era anche Luca, se non sbaglio. Io ero. No, siamo io Roberto e Tino e Tino Muscolo. C'è Antonio, è entrato Antonio, avanti Antonio. Io sono capo, è vero che non sono più come una volta, ma è un po' rotto. Avanti a tirare l'opera in antenna, così diamo per niente che mi copiate. E poi andiamo a un lineare. Vabbè, ciao Antonio, mamma. Com'è la modulazione per te? Migliorato? Io ce l'avevo, l'ho passata molto, mi capi? Per me va benissimo. Se lo so, però noi ne arrivi, siamo vicini. Per me va benissimo. Gavi, adesso riprendo, scusa, riguardo delle antenne, di quella che stavi nominando tu, così magari qualche indicazione. Aspetta, vabbè, guarda un attimino se cambia così, così almeno rimetto come la prima. La radio io più alta ce l'avevo così, è troppo alta. Allora non è bassa, ti ripeto, è da combattimento, però io ti ascolto in modo buono, non posso dire niente di coso, di negativo. La radio è molto forte, potresti anche abbassarla un pochettino, se naturalmente è confrontato con loro, se è molto più forte, loro hanno segnali più bassi, però ti ascolto bene. Che microfono stai utilizzando, Tino? Lo stesso, sempre la mia solita radio, ho solo attaccato il CTE Intermission al chiamato Claudio, l'hai visto anche tu. Era giusto per vedere se stava andando bene o meno, capito? Vabbè, ho passato comunque il Mickey Gain, No, io ripeto, funziona benissimo, la parte mia va più che bene. Quelli che sono vicini magari, tipo Gavino, li arrivi a fondo scala, per cui mi succedeva con Claudio, anche con Antonello Pompugno, capitava, là dovevo attenuare per cercare di non saturare lo stadio d'ingresso della radio. Dai. Ok, Gavino, ti stavo dicendo a riguardo delle loop, ti do la mia piccola esperienza. Avanti di nuovo, Gavino. Sì, no, io... La loop mini di Mazzoni deve essere molto molto molto performante. Ma allora assolutamente sono le antenne ideali, l'unico problema è in trasmissione non tengono potenza, cioè arrivano massimo a 300 watt, sono dove fare operazioni, però in ricezione sono da paura. C'è un amico mio che le ha costruite, e infatti mi ha dato anche il progetto eventuale. Il problema di quelle antenne è, a meno che non te le fai monobanda, tre accordi sulla frequenza che interessa a te, ci mettere un condensatore variabile, cioè un condensatore variabile che tenga 4 kV, 4000 volt, perché ci sono tensioni assurde, magari milliampere di corrente, però tensioni molto molto alte. Se non usi uno di quei, magari di quelle vecchie radio d'epoca, di qualche accordatore tipo della Magnum, di quei variabili li sciogli immediatamente, perché sono omicidi. Vabbè, lui usa la trasmissione, magari in ricezione ne puoi fare anche a meno, però ti dico, lui l'ha fatta, ha usato di quel tubo che usano gli idraulici, come lo chiamano, adesso mi viene quello tipo alluminio, quel tubo bianco che si utilizza adesso, non mi viene il nome, un diametro di 2 metri, l'ha fatta, non mi ricordo che bande la utilizzava, ti posso dire una bellissima resa, molto molto sono interessanti come antenne, se le vai a comprare costano una cifra da paura, perché costano un sacco di soldi la costruzione e soprattutto questi variabili che devono reggere potenze alte per utilizzare in trasmissione, perché passano delle tensioni molto molto alte. Di nuovo a te Gavino, che puoi fare rigirare, io aspetto ancora qualche minuto mi sto aspettando la chiamata di mia figlia e dopodiché devo chiudere, vi saluto velocissimamente. Avanti Gavino. Sì. No, vabbè, della trasmissione, ti ripeto, a me mi interessa la ricezione, io non è che uso grandissime potenze, la potenza che senti che uso io è questa, non è che mi interessi più di tanto, per il momento. Niente, ho visto però che sono antenne molto performanti di ricezione, me ne volevano regalare una, sì, col condensatore, il telecomando per, diciamo, per trovare la frequenza, di accordo, però ero in macchina, non potevo caricarla, ma credo che me la prenderò originale, magari quest'estate, prima dell'estate spero di riuscire a prenderla. Adesso la priorità, guarda, il 4 mi sta arrivando un Sommer, tanto un LF2277B, bello, ingresso 30 a 100 watt ed è quello pure intorno agli 800, ma lo prendo perché un bel HF, bello da vedere, lo tengo qua e ciccio. E poi è quello la B. al quarto piede. Mentre all'Icom gli prenderò su il polo e poi quando sarà comprerò questa luce magnifica. Le prediti? No, non c'è, vai Roberto. Ma c'è che c'è l'Antonio, vai Antonio, non c'è neanche Antonio, vabbè no. C'è Coso, come si chiama Andrea, sta vedendo una bella linea della IAE sull'effetti 101, bellissimo, perfettamente funzionante, col suo monitorizzazione e l'oscilloscopio bellissimo, guarda, spettacolare da vedere, e c'è una ricezione favolosa, considerando che è una radio molto vecchia, ma funziona anche una meraviglia. Tutta la linea se no scambiava con una radio HF tipo 450, 440, radio così, guardate che sono efficienti. La stava vendendo 450 o 500 euro, però ti posso dire che chi interessa il tipo di radio è un affare, perché tutto è in perfettissime condizioni, bello col suo altoparlante originale, bella. La cosa più spettacolare è il monitorizzazione, che funziona perfettamente in trasmissione e ricezione, e quella è una cosa bella. Tra l'altro e viene anche valutato abbastanza, perché ho visto le valutazioni come quello della Kenwood, è molto raro e lo paghi dai 400 euro in su. Lui te lo sta dando tutto completo con la stazione a 450 o 500 euro. A chi interessa il vintage, è una bellissima radio, tira fuori più di 100 watt, 130, 140 watt, perché c'era un amico mio radioattore, la utilizza periodicamente tutti i giorni quasi, quello che ti ho parlato che ha fatto la loop magnetica e ha fatto tutto il mondo con quella radio. Tutto, ma veramente tutto, non scherzando. Devi vedere con cosa lavora, c'ha una bellissima silenzio, lui lavora in CV doppio prevalentemente, però l'ho visto anche in fumia, funziona anche una meraviglia. Un po' macchinosa, magari devi conoscere, perché sono di quelle con la scala graduata, non è che digitale, però a chi piace il genere radio, quello è un bel investimento. Di nuovo a te Gavino. Diciamo che apparato è questo che sta prendendo? L'effetti 101 della IAESU col suo monitorizzazione, e ti posso dire il prezzo che lo sta dando, considerando che qua a Sassari ed è in ottime condizioni, perfetto, è un ottimo prezzo. Poi tu mi dirai, non te ne ha fottuta di radio così vecchie, però è perfettamente funzionale, sono molto robuste, è facile da riparare e a saperla usare, diciamo, non è per tutti, cioè io avrei un po' di difficoltà, nel senso non utilizzerei altri tipi di apparati, però a chi piace il tipo di radio è veramente una grande radio, ha fatto la storia dei radioamatori, veramente bella, molto grande, non è piccolina. Poi la cosa più bella che è piacevole da vedere lo scenografico è il monitor, questo oscilloscopio che ti dà la modulazione quando parli tu e quando ricevi, ti dà se stai sporcando, se sporca, se troppo satura, è bella per dare delle informazioni, è molto carina. Se non va a te Gabi. Sì, la sto guardando, gli effetti 101 vintage reset, però non mi fa vedere lo scenoscopio. È bella, bellissima, bella. Caspita, fa tutto, anche gli 11 metri, fa tutto questa radio, bella. Allora io del 101, cioè il 101 digital, se tu le vedi le radio sono quasi identiche, però il ricevitore io della linea di lì separatamente fa da 030, me l'ha dato Claudio, nuovo fiammante, lo vedi? Poi c'ho il di linea che è col 101 con lo trasmettitore, c'ho le FL 2100 della IAESU, sempre grigio, sono belli pesanti, tutto in ferro, in lamiera, e più c'ho il suo altoparlante dedicato all'SP901 che è enorme, una griglia sottile con un coso di quella radio. Chi piace il genere, sono radio da prendere correndo, come le linee della Drake sono molto similari, si fanno più che bene, sono dei pezzi che poi tengono mercato, tra 10 anni te le vuoi rivendere e c'è sempre di più di quanto hai speso, sono belle radio. Naturalmente poi ci sono tutti che preferiscono la comodità di queste radio nuove, digitali, eccetera, però in ricezione e trasmissione soprattutto funziona molto molto bene quella radio lì, te posso dire perché l'ho vista in funzione, ho visto anche i rapporti e tutto quanto, è molto silenzioso, anche se il segnale ti sembra basso, però tira fuori segnali bassi puliti, non ha un valvolare, diciamo. Sì, ascolta Roberto, e poi perché a me questa radio piace, non adesso in pratica ha tutta la linea completa lui. Lui ti dà la radio e la colonnina e il coso. Guarda, ti faccio in modo, Mario, tramite Claudio, fatti dare il mio numero da Claudio, mi conosco, mi faccio mandare le immagini e te la faccio vedere anche il video e tutto quanto. È veramente una bella storia. E per quel prezzo si può prendere al volo, perché lui addirittura doveva fare prima uno scambio con un 450, tutto d'accordo, poi questo si è tirato indietro, non so che cosa. Se c'è una radio del genere lui può anche interessare. Però Gavino, ti devo lasciare, mi ha chiamato mia figlia, Mari, se ci sei dopo ci sentiamo, che devo andare a recuperare. Dai, ti saluto, dai, buon tutto. Poi se coincide dopo, Mari, prova a chiamare, se ci sei, Mari, continuiamo il discorso. Ciao ciao. Via, ciao Roberto, tu sei la radio accesa, quando vuoi chiama e sono qua. Eccomi qua. Ci sei, Gavino? Ora. Sì, Tino. Eccomi qua. Guarda se la radio ha cambiato. No, stavo cercando di capire questo accordatore di antenna, siccome su questo canale ho dei problemi per quanto riguarda la stazionaria, no? Quindi l'accordatore automatico dell'apparato a quanto pare non ce la fa accordare subito, quindi per non fotterlo gli ho accoppiato un accordatore di antenna che manualmente riesco a massaggiare anche di meno di 1-1, capito? Sì, positivo. No, adesso mi arriva, sei attenuato, non ho l'attenuato inserito. Però ti copio bene, benissimo, non senza problemi, adesso ti sento bene. Come mai non riesci a dirvi accorciare il puntale? Guarda, non lo so, è questione di umidità, credo. Devo parlare con una persona, per il momento è incasinato nei lavori, quindi niente. Vabbè, l'importante è che ho risolto comunque, dai. Saranno più di 100, quindi ho voglia. Stazionaria è uno, proprio uno fisso, neanche a 1,5, neanche a 1,1 c'è. Sì, però è strano, ma che antenna stai usando tu? Che cosa? Che antenna stai usando? L'antenna è la Mantova, Mantova 1 sempre, ma è stata, diciamo, aggiustata, perché mi si era troncata e quindi l'ho riportata allo stato naturale, l'ha rifatta a nuovo Fabrizio, e ultimamente mi sta dando fastidio, ma oltre i due, per dire, ci mette un po' a accordare, capito? Sicuramente non ce la fa, non so, e quindi glielo ho abbassati. Ma secondo me invece ti dà problemi quando attacchi qualcosa. Quando attacchi qualcosa ti dà problemi la macchina. No, ma qua io non ho attaccato niente, questo è 450 ed è il suo watt naturale, non c'è niente da attaccato. Anzi, adesso ho attaccato questa correttore e basta, niente di che. Adesso prova a togliere l'attenuatore, sì, e sei un po' saturo, sì, un po' saturo, vabbè, noi siamo vicini, io non so come ti sta arrivando a te, però io ho tolto l'attenuatore e mi sta arrivando 9,40. Sì, ma perché siamo vicini, io ho abbassato anche il Michelin, va bene. Sì. Se ti serve qualche tetto della Mantova, dimmelo. Ascolta, guarda che sul lato, sulla sinistra, tu hai uno scritto, dove c'è scritto Alfa, Imola, Papa, AIP, c'è scritto AIP, ce l'hai inserito o disinserito? No, io ce l'ho disinserito in trasmissione, lo disinserisco sempre. Solo quando faccio ascolto lo tengo inserito, ma no, adesso è disinserito. No, buonasera. Arrivi al punto di inserisci, ora. Com'è questa? Guarda un po'. Vai. Guarda, insisti. guarda un pochino, 1, 2, 3, prova. Guarda, io ti posso dire una cosa, sì, quasi lo stesso segnale, però la modulazione è più bella. Aiuto, dai, spendi con Archino che mi stai disturbando, aiuto, dai, parla con Mulo, ti do un muscolo, dai, aiuto, dai, dai, fatto con te. Ma no, spendo subito, scusa. Ma ti posso venire un trimurone, aiuto, spegni veloce, dai, vai, vai, andando, corri. Come è lui? La radio com'è? Sì, no, ciao, auguroni, Perfetta, ma ho un altro account Facebook, Eddy. Cos'è? Ho detto che se hai un altro account Facebook. Beh, non so che una volta l'avevo fatta, però lo... non... mi si è incagliato il telefono. Sì, diciamo di sì, però non la sto utilizzando, usa sempre la vecchia. Ah, ok, ok, dai. No, io sono accazzillato, non devo dare nulla. Ah, oggi vuoi che mi accazzillato. Ah sì, vuoi giocare molto là? Oh Claudio, ehi, cazzo di non riesce a far vedere, ne esce non mi fa entrare, ma vedremo cosa fare. Ah, che cacchio di radio stai usando, si può sapere? Vai, per il 2009 con l'MB più 5, però se non esce. Non è la tua. Ma perché l'MB più 5 viene detta una tambullana, Claudio? Che cazzo la foto, intanto poi dicevo i devo entrare in radio, ma foto sono andato a salutarvi. Ciao a Gavino, ciao a Luca e ciao a Tino, correti per me. Gavino, quella roba che ti ha detto Roberto è tutta roba che ho dato io. Se hai dell'interesse fallo tranquillamente perché è roba seria, è roba buona, ma soprattutto bella, bella, bella. Ciao, buonasera a tutti. Aspetta un attimino, aspetta. Com'è la modulazione lì dalle tue parti? Il 2009 va benissimo, va sempre bene, tutto va bene, tutto procede bene. A proposito, ditemi, allora, questa è la potenza alta di questa radio, guarda, guardate lo Smith, la mazza viene in varia, questa è alta e questa è bassa e questa è alta, molta differenza c'è. Sì, la 9920, però quando si muove la radio è molto più bella. Confermo, confermo, quando si da me là arrivi 8 e 9, 10, però è meglio a bassa potenza. Buonasera comunque Claudio, buonasera. E adesso vedo un po' di farci un pensiero. Vabbè, se ci fai un pensiero contatta a me, non c'è bisogno di scambiare il numero di telefono, andiamo, ci andiamo di persona. Io ho le chiavi di casa sua, non ne ho problemi ad andarci. Quindi quando hai voglia mi chiami e io andiamo di là e andiamo. Ti accompagno io.